Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi e ben ritrovati all'appuntamento su Radio 24 con le storie della cronaca grandi e piccole. Questa è l'Italia in controluce. Sono passati 11 mesi dai fatti di Rosarno, quando, dopo il ferimento di 3 immigrati a colpi di fucile, nella cittadina calabrese scoppiarono scontri tra cittadini, immigrati e forze dell'ordine. Tra qualche giorno finirà anche il commissariamento del comune con il ballottaggio delle elezioni. Qual è oggi la situazione? Nicola Accardo. A Rosarno in Calabria, nel comune appena sciolto per infiltrazioni mafiose, sparano da un'auto contro gli immigrati. La rivolta di centinaia di immigrati a Rosarno in Calabria, con scene da guerriglia urbana. Era il gennaio di quest'anno. Centinaia di braccianti africani si sfogarono con rabbia nelle vie di Rosarno. Erano stufi delle intimidazioni e di una vita senza dignità, passata a raccogliere le arance sotto la pioggia e a dormire in capannoni senza elettricità. A questi lavoratori la dignità l'ha ridata Andrea Segre con il suo documentario Il Sangue Verde, in cui i vari Amadou, Abraham o Khalifa raccontano la loro odissea. La sensazione che ho cercato di seguire di più e di rispettare di più e di scoprire anche di più è la grande consapevolezza che c'è nei ragazzi che hanno lavorato a Rosarno e hanno manifestato a Rosarno rispetto alla necessità di alzare la voce, di non continuare a subire in silenzio tutta una serie di ingiustizie e anche di violenze che si sono rivolte nei loro confronti. Siamo fatti tutti dello stesso sangue, nessuno ha il sangue verde, dice uno di loro. Dopo la violenta rivolta, la successiva caccia all'uomo da parte dei rosarnesi e la partenza obbligata da Rosarno, la vita degli immigrati è continuata tra gli angoli della stazione Termini a Roma, nei centri di accoglienza o nelle campagne di Caserta. Nessuno è tornato a Rosarno, la paura è troppa e l'andrangheta è ancora troppo forte. La rivolta è servita assolutamente a togliere il coperchio che la classe politica e i media avevano calato su ciò che succedeva a Rosarno da anni e anni. Continuavano le violenze e a un certo punto è diventato naturale che quelle voci pacifiche diventassero manifestazioni rumorose. Per spiegare le condizioni inumane dei lavoratori africani ci vuole un lungo antefatto. Si parte dagli anni 70, quando a Rosarno iniziarono i lavori pubblici. Il racconto è di Peppino Lavorato, sindaco di Rosarno dal 1994 al 2003. I guardiani, da guardiani dei campi, cominciarono a diventare guardiani dei cantieri. E poi ottenere anche il trasporto, l'impiego della manodopera e poi il subappalto. L'andrangheta, con minacce e intimidazioni, allontanò i commercianti che venivano da fuori per rimanere l'unico acquirente ed imporre il suo prezzo basso all'agricoltore. Il documentario, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, conta ormai circa 40 proiezioni in tutta Italia. La più difficile è stata proprio a Rosarno, dove la platea dei cittadini ha difeso l'immagine della città contestando in parte il lavoro del regista. È stata un'occasione mancata per riflettere sulle condizioni degli immigrati, ma è stata lanciata una sfida. Il regista e Peppino Lavorato hanno chiesto alla prossima giunta comunale, che interromperà 2 anni di commissariamento per mafia, di conferire il premio Valarioti agli immigrati. Il premio viene consegnato a persone distintesi per l'impegno contro l'andrangheta. Quella rivolta di gennaio scorso può essere il germe di una ribellione più grande. Italia in controluce. E ora parliamo degli oggetti che spariscono dalla circolazione, complici le innovazioni tecnologiche che, sarà banale dirlo, non sempre ci migliorano la vita. Maria Luisa Pezzali. Se avete meno di 30 anni, questo suono non vi dirà niente. Se ne avete di più, vi avrà ricordato un gesto familiare, quell'appoggiare con delicatezza la puntina sul vinile e procurato un'immediata, profonda nostalgia musicale. Need no education. control. La notizia di qualche settimana fa, addio al giradischi, cessa la produzione del leggendario Technics SL1200. Il più venduto al mondo, 3 milioni di esemplari dal 1972 ad oggi. Il più amato anche dai DJ. Addio alla console e ai salotti di casa, benvenuto nelle teche del Science Museum di Londra. Stessa sorte anche per il Walkman, il lettore di cassette portatile. Dopo 3 decenni e 220 milioni di pezzi venduti, la Sony ha deciso lo stop della produzione. Un altro colpo al cuore, questa volta per i figli degli anni Ottanta. L'elenco degli oggetti dimenticati, fuori moda, usciti dal commercio è lungo e variegato. La giornalista americana Anna Jane Grossman lo ha compilato minuziosamente nel libro Obsolete, enciclopedia degli oggetti di uso comune che scompaiono. Un viaggio nel tempo e negli stili di vita che accanto al gettone, alle carte telefoniche, ai francobolli, alle chiavi d'albergo, ai rullini delle macchine fotografiche, cita anche i prossimi nominati all'eliminazione. Mouse e tastiere verranno travolti dai touchscreen e poi lettori MP3, quando saremo sempre connessi la musica si ascolterà in streaming, oppure i navigatori satellitari, sempre più integrati nei telefonini. Tecnologia a parte, quali sono i meccanismi che regolano il ciclo di vita dei prodotti nel circuito commerciale? Lo abbiamo chiesto a Claudio Marenco Mores, esperto di merchandising e fashion marketing. Si sono radicalmente accelerati molto spesso negli anni passati a scapito del prodotto e per una ricerca costante di innovazione più o meno reale poi in pratica. Adesso, grazie anche alla famigerata crisi, c'è un'attenzione maggiore, si è tirato in un certo senso il freno e si sta dando maggiore peso poi a quello che sono le reali esigenze del mercato. Tantissime case di moda poi tra l'altro in questo momento riscoprono negli archivi, rivitalizzano pedissequamente, punto a punto, i vecchi prodotti. Per i nostalgici la via di fuga si chiama collezionismo, dove gli oggetti dimenticati diventano merce rara. È tutto anche per questa puntata. Scriveteci controluce@radio24.it. Buona giornata.